Per questo ho deciso di ritornare all'origine della bossa nova, genere che racconta l'amore nelle sue diverse forme, sogno e realtà, passione e cinismo, desideri e abbandoni. Perché questo titolo? Il tempo non esiste, dicevano i grandi saggi. Ma tra Einstein e Sant'Agostino c'erano due visioni molto diverse della stessa materia. Il tempo lenisce, matura, risponde e poi diventa inesistente. Il disco è un disco importante nella storia prestigiosa della vocalist brasiliana, il suo quinto album, che esce a 9 anni di distanza da D'Improvviso ed è il primo della Now Records. Molto bene, e adesso ci ascoltiamo un brano a caso, perché effettivamente sono andato un po' di fretta in questi giorni e ci ascoltiamo un pezzo che posso pronunciare, per cui tipo Como un día. Sant'Agostino sosteneva che non esiste un tempo oggettivo, ovvero in misura assoluta ed eterna, perché è stato Dio stesso nella sua onnipotenza a crearlo dal nulla. Mi sembra un po' semplificativo, del resto, come diceva giustamente Fellini, un uovo l'ha fatto Dio, mica un ignorantone come te. Stiamo parlando di tempo, siamo a Coxo Spaziale, questa è Radio Città Fujiko, è venerdì 8 giugno e parecchi secoli dopo Isaac Newton arrivò ad una conclusione più complicata ed in netto contrasto con la precedente, basata su una radicale divisione tra tempo assoluto, indipendente dal mondo esterno, matematico e di per sé perfetto, e tempo relativo, ovvero quello umano, sensibile, imperfetto e volgare. In questo lasso di tempo volgare che è Coxo Spaziale, stasera stiamo parlando invece di una cantante per nulla volgare, Rosalia de Souza. che probabilmente pronuncerò malissimo. E è uscito il suo nuovo disco che si chiama appunto Tempo, e dove giustamente, essendo lei brasiliana, esplora la possibilità contemporanea di bossa nova. La bossa nova è uno stile dove non si nascondono i sentimenti prediligendo le note, dice lei. La mia bossa nova si distingue per l'interpretazione poetica, come dovrebbe essere la bossa nova sempre, non gridata ma sentita. Per me è la più pura forma di bossa nova. E questa è la chiave di lettura del disco, ma anche dei concerti, una dimensione emozionante alla quale l'artista brasiliana tiene molto. Francesca, chissà, verrà a Bologna la nostra Rosalia? Chi lo sa? Mi dicono che il 22 giugno sarà la 14ª edizione di Baring Jazz a Polignano, il 28 giugno alla 2ª edizione del Caserta Jazz Festival, il 19 agosto al 38esimo Rocella Jazz Festival a Rocella Ionica in provincia di Reggio Calabria, e il 13 ottobre al Teatro Cilea di Reggio Calabria. Per arrivare più a nord, a Bari, al Teatro Forma, il 15 dicembre. Comunque presumo che la nostra Rosalia graviti verso il sud Italia. Comunque c'è una pagina Facebook, facebook.com Rosalia De Sousa Ufficiale, che poi troverete su www.coxospaziale.blogspot.com da domani o addirittura più tardi, perché in questi giorni sono riuscito anche a far apparire il blog poche ore dopo la trasmissione. E nel frattempo ci ascoltiamo una canzone un po' meno nostalgica di quella di prima, che era Como el Día, e questa invece però non la so pronunciare il titolo, credo che si dica So para você. para você. Ciúme, besteira, a flor ainda não morreu. Espero que agora, depois do que aconteceu, a volta da bossa me traga um sorriso teu. Creatività generica. Comunque io, che sono al contrario del nostro amico e collega William Piana, che salutiamo, sono un ignorantissimo di jazz, però la bossa nova devo dire che mi ha sempre appassionato. C'ha questa sorta di gentilezza di fondo, no? E poi non lo so, le voci della bossa nova sono veramente sempre meravigliose. E volevo concludere questo piccolo cappello di introduzione al disco, appunto, al disco Tempo di Rosalia de Sousa, con un'ultima canzone che credo che parli di carnevale. Si chiama Now Tem Mais Carnaval, che probabilmente quando lei lo sentirà pronunciare da me dirà: ma questo poverino è scemo. Siamo a Coxo Spaziale, ciao. Foi chegando bem lenta, me derrubou, pôs um ponto final. Foi sorrateira, invadiu em silêncio, pegou meu peito e me deu tanta dor. Não tem mais carnaval, pois o amor não conhece rival. Ele é sem pena, não caminho te atravessa, nem quer nem saber. Te descabela e sem fundamento, te escraviza e te faz tão feliz. Não tem mais carnaval, pois o amor não conhece rival. Não tem, pois o amor não conhece rival. Não tem mais carnaval, pois o amor rival. coxo spaziale. Certo, se uno va su internet e scrive che cos'è il tempo, si trova veramente di tutto. Cos'è il tempo in filosofia? Se al giorno d'oggi si facesse un sondaggio su questo emblematico quesito, credo che dai campioni di risposte si otterrebbero genericamente tre tipi di soluzioni. Alcuni comincerebbero ad ostentare la loro conoscenza parlando scontatamente di ore, minuti e nanosecondi, mentre altri, con estrema superficialità, lo definirebbero una cosa che avanza troppo velocemente portando con sé capelli bianchi, reumatismi e rughe, che solo il bisturi di un chirurgo plastico può parzialmente appianare. Dopodiché c'è anche un link su una tesina sullo spazio e il tempo per la maturità. Anche la maturità è uno scandire del tempo, anzi, se non sbaglio, siamo addirittura d'arrivo per gli studenti che devono fare la maturità. Ma chi è che ha tempo? Nessuno ormai ha più tempo, anzi, in questa nuova era tecnologica, dove il tempo appunto è scandito dai messaggini che riceviamo costantemente, dal fatto di essere costantemente collegati con chiunque, il tempo diventa sempre meno, perché poi fra l'altro, cioè, la parte negativa, tutti si lamentano, no, di questo momento tecnologico in cui nessuno ha più tempo di fare niente, mentre poi alle volte invece diciamo guarda quanto tempo ho risparmiato perché ho fatto tutto online, eccetera. Ma quello che invece nessuno si ricorda di menzionare, per esempio, è il fatto che alle volte ci perdiamo su Facebook a guardare delle stupidaggini. Ma è davvero tempo perso quello? O è tempo che in realtà noi ci stiamo godendo? Perché io alle volte trovo dei post su Facebook, su Facebook o sui social in generale, che sono veramente una gioia per gli occhi. Certo, questi mi tolgono il tempo di leggere magari libri più importanti o più interessanti o più utili, ma nello stesso tempo comunque io non ritengo che sia così tanto tempo mal speso. A proposito di tempo, fra l'altro, questa musichetta di sottofondo che voi sentite è la musicata Riccardo Lolli ed è una mia composizione che ho scritto forse addirittura 20 anni fa. E per mancanza di tempo, nessuna delle cantanti a cui ho chiesto di cantare, due voci fantastiche, la prima si chiama Sabrina Negrisolo, che saluto, la seconda si chiama, che la conoscete perché ce l'abbiamo ospite molto spesso, è Suzuki Haru, nessuna delle due ha ancora avuto il tempo di cantarci sopra, ma prima o poi, chissà, speriamo che succeda. Tempo. Facciamo un time out. When you wake up, turn your radio on, and you'll hear this simple song that I made up, that I made up for you. When you're driving, turn your radio up, 'cause I can't sing loud enough, hard these days to get my message through. Somewhere in that crowd torn up, and that it isn't me. When we're older and the memories fade, I know I'll still feel the same, yeah, for as long as I live. And if time is all I have, I'll waste all on you. Each day I'll turn it back. And if time is all I have, I waste it all on you. Each day I'll turn it back. It's what the brokenhearted do. I'm tired of talking to an empty space. Our silence is keeping me away. If time is all I have, I waste it all on you. Each day I'll turn it back. It's what the brokenhearted do. I'm tired of talking to an empty space. Our silence is keeping me away. Won't you say my name when the song is over? Per esempio James Blunt, che abbiamo appena ascoltato, di tempo ne ha, e questa era una canzone che si chiamava If Time Is All I Have, se il tempo è l'unica cosa che ho. E vabbè, beato lui che ha del tempo. Kant affronta la problematica nella prima parte della critica della ragion pura, detta estetica trascendentale, studiando i principi a priori della sensibilità, cioè lo spazio e il tempo. La sensibilità è ricettiva perché accoglie per intuizioni i propri contenuti dall'esperienza interna o dalla realtà esterna, ma anche attiva perché organizza le sensazioni tramite lo spazio e il tempo. Kant giunge alla soluzione che spazio e tempo non sono né una realtà oggettiva in se stessa, né semplici relazioni tra oggetti, ma piuttosto forme a priori della sensibilità umana, intuizioni pure. Kant definisce conoscenze a priori le conoscenze universali e necessarie. Queste conoscenze devono essere indipendenti dell'esperienza e sono messe in contrapposizione con ciò che è a posteriori. Questa era una tesina sul tempo, anzi era parte di una tesina sul tempo, che ho trovato su internet. Devo dire che io Kant non l'ho mai studiato, come del resto non ho mai studiato quasi nulla. No, in realtà non è vero, ho studiato un po' di storia dell'arte, diciamo che su quello sono abbastanza ferrato. Le due intuizioni di Kant sono dominate dalla priorità e confuta tre diverse visioni dell'argomento: visione empiristica, spazio e tempo, visione oggettivistica, entità a sé stanti o recipienti vuoti, visione concettualistica, concetti esprimenti i rapporti tra le cose, ma essi non possono essere considerati concetti perché sono qualcosa di intuitivo e non di discorsivo. Un po' come questo programma, che è un po' intuitivo e anche un po' discorsivo. Ovvero parliamo di nulla, no? Siamo abbastanza empirici. E il tempo continua a passare, ma chiediamo a qualcuno più veloce sicuramente. Chiediamo a qualcuno di più veloce che cos'è il tempo. Ciao! Ciao! Posso esserti d'aiuto? Cortana, che cos'è il tempo? C'è una temperatura di 22 gradi, contemporali. Che cos'è il tempo? Ecco alcune informazioni che potrebbero esserti utili. Ciao, stammi bene. A dopo! E inoltre il tempo, naturalmente, che continua a passare anche durante una magnifica trasmissione come Coxo Spaziale, il tempo arriva anche il tempo per il nostro fantasmagorico, fantomatico, fruibile e utile angolo della menzione. L'angolo della menzione. Domani alle ore 17 vi invito a un'inaugurazione a cui non potete andare. USA 68, USA 68, Disordine e Sogni, 54 immagini di reportage. La fondazione MUST, senza tradire la propria vocazione espositiva incentrata sui temi del lavoro e dell'industria, presenta una mostra sul 1968 negli Stati Uniti, non solo per ricordare un anno emblematico, ma anche per rendere omaggio al fotogiornalismo degli anni 60. attraverso 54 immagini iconiche di alcune tra i più celebri fotoreporter dell'epoca, la mostra racconta la data simbolo di una delle rivoluzioni culturali più significative di sempre. Da una parte per restituire uno spirito del tempo segnato da disordini e sogni, dall'altra per celebrare un genere fotografico glorioso, sul punto di cedere il passo alle prime trasmissioni in diretta televisiva a colori. Queste domani inaugura alle 5, purtroppo non è possibile partecipare perché io ho cliccato il link che mi è arrivato dal MUST e mi dice che è tutto esaurito, per cui è probabile che se proviamo ad andarci ci buttino fuori, per cui non ci provo nemmeno, perché tanto il MUST è gratuito sempre, se non sbaglio, o forse mi sbaglio, comunque non lo so. Fatto sta che è in via Speranza 42 e trovate tutto su www.must.org, e MUST, M-A-S-T, è scritto con la A e non con la U, che sarebbe MUST in quel caso. Chissà se qualcuno ha registrato must.org con la U. Invece, lunedì 11 giugno alle ore 9.15, e presumo che siano le 21.15, anzi ne ho la certezza assoluta, al Cubo, Centro Unipol di Bologna, l'arte contemporanea spiegata a mia nonna. E c'è un link di Facebook che mi sono dimenticato di cliccare prima di cominciare a parlare, e andiamoci subito. E stiamo parlando di, com'è che io non ho la memoria breve e non mi viene in mente il nome della mia cara amica, ecco, Alice Zannoni, che mi ha invitato personalmente su Facebook. Citando Enzo Bianchi, trasmettere è la sola maniera di essere fedeli a ciò che si è ricevuto. Questo cosa c'entra? Guarda, c'è la storica dell'arte Milena Naldi che ospita appunto Alice Zannoni, autrice del libro. Il libro è L'arte contemporanea spiegata a mia nonna. Per cui se vostra nonna oppure anche voi volete avvicinarvi al mondo dell'arte contemporanea, sicuramente oltre a lo potevo fare anch'io del famosissimo Francesco Bonami, potete appunto comprare il libro di Alice Zannoni, L'arte contemporanea spiegata a mia nonna, ridere, piangere e capire. La presentazione è lunedì al Cubo alle 21.15, e il Cubo è il Centro Unipol di Bologna, in piazza Vieira de Mello, numero 35. Trovate tutto su www.cubounipol.it o naturalmente su coxospaziale.blogspot.com. E così abbiamo finito, se non erro, anche le menzioni di oggi, ma appunto continuavamo a parlare di tempo. No, in realtà abbiamo anche finito di parlare di tempo. Bergson distingue due tipi di tempo: tempo della scienza o tempo spazializzato, che è il tempo concepito con le caratteristiche dello spazio. Ma è sta cosa che quando sei in giro per lo spazio il tempo è diverso rispetto a quando sei sulla Terra, mi lascia veramente un po' così, sarò veramente un ignorantone, ma è strana sta cosa. Fatto sta che il tempo passa per tutti e c'è modo e modo di passare il tempo, e il modo migliore è ascoltando fantastica musica. We'll be right back. but you know what I mean. Think forward that sick pace. We wanna see them swing so high. And you think you've got it watertight. And you think you got it made. And you're trying to play the hero. You'll never work over the dark. Whatever happened to the great empire? You bastards have turned it into my new world. Top me up, stick together now. Ooh. E questi erano i Jam con Time for the Truth, no, Time for Truth, ovvero il tempo, tempo della verità. Chissà se stiamo arrivando al tempo della verità. Abbiamo un nuovo governo, un nuovo di Vivek che comincia già a fare un po' cose fuori dal tempo, tra cui mettere in discussione la legge sull'aborto o i matrimoni omosessuali, ahimè. E speriamo che non attuino queste cagate, perché altrimenti ci toccherà di nuovo metterci il giubbottino ed andare a fare le barricate, no, non dico le barricate, ma comunque andare a dimostrare in piazza, oltre che a firmare petizioni un po' inutili su Facebook, cioè inutili fino a un certo punto naturalmente. Comunque il tempo della verità secondo me non è questo per niente, anzi forse il tempo della verità l'abbiamo passato appunto nel 68, come dicevamo prima, ma chissà se anche quello era un tempo della verità, perché poi in fondo se io vado ad analizzare profondamente gli artisti di quel periodo, un po' ci marciavano anche loro. Andiamo a sentirci un pezzo del 1968 dei Beatles, visto che loro hanno cambiato il tempo. Change my world. questa era Across the Universe, scritta da John Lennon proprio nel 1968 e in questo caso invece cantata da Fiona Apple, che non è male per niente questa versione. E siamo su siete, siamo, sono, chissà, ba, du, a, facciamo un po' di, com'è che si chiama, Young Signorino dice che state ascoltando Coxo Spaziale, siamo a venerdì, oggi è venerdì 8 giugno e stiamo parlando di tempo, ma stiamo parlando di tempo perché l'occasione ci è stata data dalla nostra amica Francesca Grispello, che ci ha raccontato come è uscito il nuovo album di Rosalia de Sousa, che si chiama appunto Tempo, e questo ci ha dato l'occasione di parlare di tempo. La nostra Francesca è dell'ufficio stampa Simpress 44, che si sa che chissà se si dice Simpress 44 oppure Simpress 44. Adesso vado, clicco Alt e clicco, no, Control e clic, vado proprio a vedere il loro sito, che penso di non esserci mai andato. Invece c'ero stato. Sì, ci sono un sacco tutti i comunicati stampa di tutti i dischi che loro ci promuovono, tra cui appunto Luciano Chessa, che abbiamo sentito la settimana scorsa, e invece la nostra Rosalia de Sousa, che poi ascolteremo più tardi, perché c'è un altro pezzo bellissimo che nel finale della trasmissione, che ahimè si sta avvicinando, volevo farvi ascoltare. Vi faccio anche una mezza promessa, che venerdì prossimo faremo live io e Fedra. È una mezza promessa, perché non so se Fedra può o non può, non l'ho ancora chiamata e non sarebbe simpatico chiamarla dal vivo e farvela ascoltare così. Anche perché il capo ci dice di non essere autoreferenziali, per cui non lo siamo e diciamo... È tutto chiaro, no? Ecco qua per la signorina. Marina, sbrigati, hanno portato la colazione. Basta, grazie. E cosa stavo dicendo? Continua a parlare, ti ascolto. Mi scuserai, ma voglio farmi una doccia. E il tempo di cui dispongo è scarso. Ti annoierai. Sii sincero. Oh no, affatto. Metti a posto. La ragazza passeggia per il viale, rincorrendosi da sola. Dietro la porta occhieggia un maiale, porta le scarpe ma senza la suola. Sarebbe bello se tornai a scuola, rincorrendomi da sola. Se son volgare il tempo vola, se sono fine non ha mai fine. Adesso picchio le bambine, più quelle brutte che quelle belline. Poi mi mangio le tortine che ho rubato alle bambine. Passeggia per il viale, ho delle viole ma non le vuole, vuole solo del caviale, ho un vassoio di raviole. Chi è? Non si può neanche scherzare. In questo momento no, ho i miei pensieri. E allora se li tenga. Basta, grazie. E cosa stavo dicendo? Allora metto triste. La ragazza occhieggia per il viale, rincorrendosi da sola. Se cala il sole si sente sola. S'alza la luna perché è già luna. Con un poco di fortuna la ero bionda e diventerò bruna, rincorrendomi da sola. Moreno, Aldo Moreno. Vengo. Marina, chi è? Moreno. Almeno questi non li avrai persi. Ora non abbiamo più niente da dirci. Puoi pure ritornare in camera tua. Sono Paolo Assei e sto ascoltando Coxo Spaziale. Naturalmente non poteva mancare il nostro caro, carissimo Riccardo Lolli, che salutiamo e abbracciamo ulteriormente, con un pezzo sul tempo. Infatti questo era Il Tempo Vola, che e viene da questo, non so, CD, cofanetto, chissà come si può chiamare. In realtà forse Francesca e Riccardo si potrebbero incontrare e magari salta fuori qualcosa di interessante. Comunque, Francesca, se sei all'ascolto, vai a cercarti Riccardo Lolli online e poi mi dici cosa ne pensi. Questa era la raccoltona 1996-2006 e questo il pezzo era il pezzo numero 2 di questo appunto cofanettone. Il pezzo era appunto Il Tempo Vola. E infatti il tempo vola perché anche Coxo Spaziale sta per terminare e noi cosa dobbiamo fare? Possiamo, forse dovrei invitare direttamente la Irma Ridolfini, che mi piace tanto. Coxo Spaziale finisce qui, abbiamo parlato di tempo e finiamo con l'ultimo pezzo, non l'ultimo, l'ultimo per noi per questa sera, della nostra Rosaria De Sousa, il cui album Tempo è appena uscito, e il pezzo si intitola Chovendo, e siccome c'era scritto Radio Edit, allora dico, allora bisogna, se l'edit è quello della radio, bisogna farlo, dovremmo farlo sentire per radio. E dunque questa è una radio e questa è Rosaria De Sousa. Ciao, ci sentiamo, ci risentiamo venerdì prossimo dalle 8 alle 9 di sera, sempre sugli schermi, no, sulle frequenze dei 103.1 FM di Radio Città Fujiko. Questo era Coxo Spaziale, io ero Stefano W. Pasquini, ci sentiamo venerdì prossimo, ciao! Quando mi dicen che chover traz paciência, ma se a gente non aguenta esse chovendo no molhado, começa, parece que não termina. Esse castigo, essa sina, dura um dia ou muito mais. Agora, amigo, estou quase gargalhando. Essa história é uma piada que eu sei não dá em nada. Mas eu insisto, não largo o trampo. Talvez, quem sabe, sou eu que me engano. sua baiana pra mostrar a minha garra. Não tenho medo, eu sou guerreira. Ninguém abaixa minha bandeira.